Friuli nel mondo, 204esima trasmissione dedicata agli immigrati, villotte del nostro tempo. Le moderne villotte che il gruppo corale Giuseppe Schiff di Chiopris Viscone, diretto da Eligio Tomasin, esegue oggi per voi, stanno a dimostrare che questo canto tipico nostrano non muore né potrà mai morire. Esse sono il segno dell'evoluzione canora di questo canto corale che, attraverso l'arco di tanti secoli, ha saputo mantenere inalterati la genuina melodia e l'antico idioma che nella coralità sanno esprimere sentimenti di gioia, di dolore, di nostalgia, di serenità e di dignità, quello spirito insomma che è tipico del nostro Friuli. Ascolterete pertanto di Michelutti e del Fabbro No soi plui, Chiampanute pitinine, Se ti incontri, Dolci riquart e Sorisins, e infine di Luciano Cividino O ce biel chantabilotis. Amen. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Armete Pelizzari.